non vi parlerò, non temete, dell'impasse elettorale tra Gore e Bush. E ne hanno già parlato in troppi, e comunque non c'è bisogno della caccia per apprezzare il fatto che la massima potenza mondiale riuscirà forse a darsi un presidente, ma non riuscirà certo a verificarne la nomina, visto che con queste cifre e con quel sistema elettorale il valore dell'elezione non sarà comunque diverso da quel che sarebbe se la presidenza se la fossero giocata a testa o croce. Gli americani di solito sono orgogliosi del loro sistema istituzionale, ma non c'è sistema istituzionale che regga in assenza di soggetti politici che lo facciano funzionare. Si potrebbe sospettare che questo derivi dal fatto che laggiù di politica se ne fa sempre meno, nel senso che per governare basta e avanza il dollaro, deducendone per logica conseguenza che noi in Italia, che ci apprestiamo a consegnare le leve del governo senza superflue mediazioni all'uomo più ricco del paese, ci dimostriamo decisamente all'avanguardia. Ma di tutto questo avremo tempo per parlare con comodo in primavera. Oggi vi chiedo soltanto di tornare con la memoria a mercoledì scorso, quando, dopo aver appreso via radio della asserita vittoria di Bush, siete usciti di casa e avete acquistato il giornale all'edicola. E quale che sia il quotidiano a cui vi servate le vostre preferenze, avrete notato senz'altro che il titolo di prima pagina era 9 colonne, a 5 nel caso della Repubblica, come ben sa dice una notizia importante, ed era dedicato ovviamente alle elezioni presidenziali, ma non informava affatto su chi avesse vinto. E sfido, certo, di previsioni sicure quella volta non ne giravano. Al momento della chiusura dei quotidiani, che in Italia avviene verso mezzanotte, i conteggi in America non si erano ancora conclusi, per ovvie ragioni di fuso orario, e tutti avevano dovuto accontentarsi di titoli generici del tipo l'America sceglie, Bush e Gore testa a testa, viene eletto il presidente del 2000, la grande sfida e simili banalità. E qualche testata più zelante delle altre affiancava quei titoloni il fondo di politologi di vaglia, indimenticabile Sergio Romano sul Corriere della Sera, in cui si spiegava con gravità di stile e dovizia di argomentazioni che se non avesse vinto l'uno avrebbe vinto senza dubbio l'altro. Voi naturalmente a quel punto chi avesse vinto lo sapevate già, o almeno credevate di saperlo, per cui a tutto ciò avete prestato pochissima attenzione. A seconda dei vostri interessi sarete passati subito, come ho fatto io, alla cronaca cittadina, alla pagina culturale, a quella sportiva, al cinema o a che altro. Solo in seconda battuta forse vi sarà venuto in mente che era abbastanza curioso dedicare un titolo di tutta pagina, compreso di fondo, a una non notizia, informando su 9 colonne a caratteri di scatola che quel dato giornale, chi avesse vinto le elezioni negli Stati Uniti d'America, non era proprio in grado di dirlo a nessuno. In fondo era proprio curioso. Oltretutto non ce n'era neanche bisogno, perché che in Italia i quotidiani su carta di mercoledì 8 novembre non potessero dar conto delle elezioni del presidente degli Stati Uniti era la cosa più naturale del mondo. Non era colpa di nessuno, sarebbero stato informare i lettori con un semplice trafiletto del come le elezioni si fossero svolte regolarmente e dar loro appuntamento all'indomani per i commenti e gli approfondimenti del caso, dedicando lo spazio risparmiato a qualche altro argomento interessante, più interessante. La tecnologia dell'informazione, lo sappiamo, non è quella di un secolo fa, le ultime notizie arrivano a tutti in tempo reale via etere o via elettronica, non vengono più strillonate per strada con l'ultima edizione dei quotidiani. I quotidiani servono delle altre cose. Non è facilissimo sempre sapere a cosa, ma servono delle altre cose. Il che a quanto pare chi fa i quotidiani non sa ancora. Fedeli alla tradizione per cui i grandi eventi vanno coperti sempre e comunque, gli strateghi della carta stampata, se non sono in grado di ottemperare all'imperativo, decidono di far finta. Nell'impossibile sforzo di tenere il ritmo della concorrenza radio-televisiva e di quella elettronica, ricorrono alla simulazione. Mi direte che è una simulazione abbastanza innocua, perché i lettori lo sanno benissimo nel complesso, se non nei particolari, e tutto sommato l'accettano, ma sempre di simulazione si tratta. Quelli fanno titoli e commenti su argomenti e materie su cui non sanno un tubo, fingendo di essere perfettamente aggiornati su tutto quello che vale la pena sapere, tanto chi comprerà il giornale saprà benissimo quello che chi lo ha preparato ignorava. e in base a questa sua competenza orienterà la lettura. È una procedura, a pensarci bene, piuttosto futile, eppure tutti disciplinatamente ci si sottomettiamo, e non soltanto quando si elegge il Presidente degli Stati Uniti. Questa volta naturalmente l'operazione è stata più evidente del solito, perché anche l'informazione istantanea, quella televisiva e elettronica, ha clamorosamente cannato l'obiettivo. Pur di anticipare quanto più possibile quella tanto attesa notizia, radio e TV hanno finito per mettere in piedi anche loro la loro brava simulazione, diffondendo dei dati non confermati con il rischio di vederseli smentire un'ora dopo. Il che è successo. Così, per colmo di paradosso, quella mattina i quotidiani che scrivevano in sostanza "io non so ancora chi ha vinto" erano molto più affidabili, casualmente, di tutti i notiziari radiotelevisivi che davano per scontato la vittoria di Bush. Il che è normale, naturalmente, è ovvio, è spiegabile passaggio per passaggio, non è colpa di nessuna, ma che quelle notizie fossero simulate resta un dato, e se è così facile simulare le notizie in prima pagina, chi ci assicura che non lo siano tutte le altre, scusate.